Invece sulla stampa un'intervista ad Achille Serra, l'ex, insomma, oggi senatore, ex questore, ex capo della Mobile, colui che l'ha sfidato, l'ha arrestato anche, Renato Vallanzasca, negli anni 70, e che dice: l'ho inseguito per una vita, ora abbiamo davvero vinto. Voi che ne pensate? Secondo voi è giusto che Vallanzasca abbia questa opportunità di uscire? Oppure siete molto, molto duri? Insomma, non dovrebbe neanche uscire di carcere di giorno per andare a lavorare. Dovete votare su radio24.it. Bianco o nero. Poi ne parleremo alle 8.30. Chiudo la citazione della Gazzetta dello Sport. Speriamo che la Fiorentina stasera ce la faccia. L'urlo di Gila. Devono recuperare dal 2-1 vergognoso, tra l'altro con un gol in fuorigioco solare preso a Monaco col Bayern. Ma la Gazzetta dello Sport ve la segnalo solo perché è un'intervista esclusiva a Berlusconi, in qualità ovviamente di presidente del Milan. Digno, pensaci tu, pagina 2 e 3, voglio un Milan indiavolato. Berlusconi, c'è un casino elettorale in corso, ma ha fatto un'intervista parlando di calcio sulla Gazzetta dello Sport, perché domani il Milan è impegnato a Manchester e ovviamente speriamo che vinca e trionfi, e questo è un mio augurio personale. Sono le 8:17, ben ritrovati in diretta, eccoci qua per parlare dell'economia. Con le stampanti e multifunzioni a colori Xerox e inchiostro solido è più semplice. Vai su xerox.it/promo. Vi presenta Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani che fa strani gesti. Sì, l'economia, no, sì. Lo scibile dell'economia in 9 minuti. Mondo, stamattina tutta quanta. Ti sei calmato sulla storia del Grande Fratello o sei ancora irritato? No. Senti. Me ne può fregare di meno. Ecco, potresti essere un po' più chiaro, scusa, non ho capito l'antifona. Non mi interessa, anche se e infatti ho l'abbiamo capito perché la segna stampa ti sei apertamente disinteressato dell'argomento. Bravo, sì, condivido. Sì. Pur conoscendo il vincitore, tu me ci fai finta. Sei riuscito conoscerlo. A parlarne a Radio 24. Esattamente. Chiudiamo, parliamo di cose più bene, serie. Sì. Siamo entrati in piena stagione dei redditi e già vediamo ravvicinatissime le prime scadenze. Le scadenze che sono le solite: entro il 30 aprile si presenta il 7.30 all'azienda, che è il cosiddetto sostituto d'imposta, oppure entro il 31 maggio ci si rivolge ad un professionista abilitato, che potrebbe essere un commercialista, o a un CAF, un centro di assistenza fiscale. Oggi noi parliamo di una voce di spesa che è ampiamente detratta dagli italiani, dai contribuenti italiani. Parliamo di spese per medicinali e visite mediche, tutti quelli che abbiamo acquistato nel corso dell'anno passato e che ora potremmo detrarre dalla nostra dichiarazione e farci scontare qualcosa, dato che la spesa in farmaci, come vi dicevo, è sempre molto considerevole anche per i portafogli più modesti. Vi do qualche dato: in Italia il mercato del farmaco vale quasi 24 miliardi e mezzo di euro l'anno, il 75% di questa cifra è rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale. In pratica la spesa annuale per cure farmacologiche ammonterebbe in media a circa 410 euro per ciascun italiano. Questa è una stima dell'Agenzia Italiana del Farmaco. I farmaci del sistema cardiovascolare, con oltre 5 miliardi di euro, sono in assoluto i farmaci più utilizzati dagli italiani, con una copertura di spesa da parte del Servizio Sanitario Nazionale di quasi il 93%. Avrei tanti altri dati, ma direi di andare alle regole per detrarre queste spese dalla dichiarazione dei redditi. Questa mattina ci aiuta il dottor Maurizio Basaglia, direttore del CAF ACLI di Roma. Dottor Basaglia, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, diciamo che sostanzialmente grosse novità rispetto allo scorso anno non ce ne sono, con l'unica eccezione di una novità che riguarda il cosiddetto scontrino parlante. Dottor Basaglia, quando acquistiamo un farmaco in farmacia, naturalmente lo scorso anno, questo scontrino doveva attestare il nome del farmaco che acquistavamo, adesso invece è entrata in vigore una regola nuova perché in qualche maniera siamo più tutelati dal punto di vista della privacy. Che cosa è cambiato? Esatto, a partire dall'aprile dello scorso anno, in ossequio a una direttiva del garante della privacy, è stato stabilito che le indicazioni riportate con la descrizione del farmaco possano ledere in realtà la privacy del soggetto, rivelando quelle che sono le sue patologie, e di conseguenza per evitare questo abuso da parte del documento, che andrebbe appunto a specificare aspetti di privacy, è stato stabilito che possa in sostituzione della descrizione del farmaco essere indicato il codice di autorizzazione all'immissione in commercio. Sostanzialmente questo codice è riportato in un elenco dei farmaci e del che sono autorizzati appunto alla detrazione e di conseguenza all'immissione in commercio. Quindi in sostanza il nome del farmaco è riportato ma è codificato, per cui non lo si può leggere chiaramente. Esatto, quindi questo per tutelare la nostra privacy. Dottor Basaglia, quante spese per farmaci possiamo sostenere come contribuenti ogni anno e quanto misura massima il fisco ci può rimborsare? Beh, il massimo di spesa che si può detrarre sostanzialmente è pari al proprio reddito, questo considerando che quello che possiamo chiedere a rimborso sono le ritenute che sono state liquidate nel corso dell'anno precedente, quindi nel corso dell'anno oggetto di dichiarazione. Andando in farmacia, che cosa serve che la farmacia ci rilasci per poter poi utilizzare la certificazione ai fini della detrazione dei redditi? Allora, la farmacia si è attrezzata nel corso di questi ultimi due anni, perché in realtà l'ultimo provvedimento che osserviamo è quello riguardante, è quello che è riferito al febbraio di quest'anno, la circolare dell'Agenzia delle Entrate, sì. Numero 10 del 17 febbraio, ma questa è l'ultima di una serie di circolari che è di determinazioni che hanno condotto l'utente a richiedere in farmacia un documento così definito scontrino parlante che riporti meglio nella dicitura la natura, qualità, quantità dei beni acquistati e il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa. Perfetto. No, volevo tra l'altro ricordare che adesso, al di là di queste indicazioni che riporta, è uno scontrino fiscale normale, fatto in carta chimica. Allora, un'altra indicazione che volevo dare, se me lo consente, dottor Basaglia, è di fare la fotocopia quando la farmacia ci rilascia questo documento, perché in genere scolorisce e qualche volta non lo possiamo utilizzare ai fini della detrazione dei redditi quando lo portiamo dal commercialista. Questa è una cosa che ogni tanto ricordiamo, giusto? È assolutamente vero, questa è una di quelle situazioni con le quali ci scontriamo soprattutto nel momento in cui si effettuano i controlli dei documenti. Quindi è stato previsto dall'Agenzia delle Entrate che in luogo dello scontrino, che dopo qualche anno diventa totalmente illeggibile proprio perché su carta chimica, possa essere prodotta la fotocopia del documento, dello scontrino stesso. Allora, lei ci ricordava prima questa risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, la numero 10 del 17 febbraio, che ha reso noto l'elenco delle sigle che identificano farmaci detraibili. Ricordo che non è prevista nessuna detrazione per i prodotti definiti come integratori o fitoterapici, quindi controllate tutti gli altri. Per quello che riguarda invece le spese relative a visite mediche, visite specialistiche, dottor Basaglia, è cambiato qualcosa rispetto a questo? No, dagli anni passati. Sostanzialmente sono previste le detrazioni in merito alle spese specialistiche, le spese di indagini mediche svolte appunto nei confronti del paziente. L'unico accorgimento, ma il medico in questo caso si adopera sempre per fare questo tipo di pratica, è il rilascio della ricevuta o della fattura, chiaramente, dove a sua volta devono essere sempre riportate le indicazioni riferite alla natura della prestazione, chiaramente alle indicazioni riguardanti l'importo pagato, le indicazioni anagrafiche del soggetto, comprensive di codice fiscale del soggetto che paziente che ha subito la prestazione e le indicazioni riguardanti il soggetto emittente, cioè colui che ha eseguito la prestazione. Anche in questo caso? Sì, no, mi scusi, l'avevo interrotta. Prego, non è cambiato niente in merito. Rispetto all'anno scorso. E senta, c'è anche in questo caso, le faccio la domanda che le ho fatto relativamente ai farmaci, un tetto massimo di detrazione o di spesa che noi possiamo sostenere contribuenti, oltre alla quale poi il fisco non ci rimborsa più nulla? Allora, anche in questo caso vale la stessa regola, cioè facendo riferimento al fatto che la detrazione come concetto va a incidere nelle ritenute, cioè in quanto è stato pagato nel corso dell'anno precedente, la detrazione opera quindi a rimborso di quanto pagato. e in conseguenza di questo si può considerare il termine capienza, cioè l'ammontare complessivo delle ritenute che sono state liquidate nel corso dell'anno precedente rappresenta il totale che può essere rimborsato. Per fare un esempio, dice? Un esempio, se il mio reddito ammonta a 20.000 euro, il totale di spese che io potrò sostenere in considerazione del fatto che 20.000 euro, dopo dipende chiaramente se il soggetto è singolo, ha familiari a carico, eccetera. Comunque in linea generale parliamo di ritenute nell'ordine dei 3.000 euro, dai 3 ai 4.000 euro, l'ammontare di spese massime che io posso sostenere sarà di 20.000 euro, in considerazione del fatto che potrò chiedere una restituzione, parlando per quanto riguarda le spese mediche, che mi viene riconosciuta nell'ordine del 19% mm-hmm. della spesa sostenuta, quindi fino a un massimo di 20.000 euro, grosso modo, chiaramente, perché poi va visto caso per caso, posso sostenere la spesa. Dottor Basaglia, io la ringrazio per essere stato con noi, speriamo di aver chiarito i dubbi che avevano su questo argomento, magari i contribuenti in ascolto questa mattina. Le auguro una buona giornata. Grazie, a presto, arrivederci. Alessandro, oggi esplorerò di nuovo i prezzi delle case, dove stanno andando. Rifacciamo un puntino della situazione. Bene. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: il TAR del Lazio ha detto no alla riammissione delle liste del PDL nella provincia di Roma. Secondo il tribunale non è applicabile il decreto salva liste perché il Lazio ha una sua legge elettorale. Oggi però è atteso un nuovo pronunciamento. L'ufficio elettorale del Tribunale di Roma deciderà sull'ammissione delle liste del PDL che ieri sono state ripresentate in base allo stesso decreto. Se ci avete capito poco, è normale. Comunque ne parlerà Oscar Giannino alle 9. Vi rimando a lui. Da oggi intanto al Senato si preannuncia battaglia sul legittimo impedimento. L'opposizione ha presentato 1.200 emendamenti. Il provvedimento potrebbe diventare legge in settimana. Per il calcio, la Champions League. Stasera la Fiorentina affronta il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale. Si parte dal 2-1 per i tedeschi. Domani tocca al Milan, impegnato a Manchester. E allora alle 8:34 minuti, come detto, parliamo di Renato Vallanzasca, della decisione di concedere la possibilità di lavorare di giorno per poi tornare in carcere di sera. Che ne pensate? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Vabbè, esce dal carcere, ma non è una delle evasioni che l'hanno anche reso celebre in questi decenni. Renato Vallanzasca, forse lo conoscete, i più giovani magari no, ma insomma è una persona che negli anni 70 ha compiuto diversi delitti, per questo è stato condannato a 4 ergastoli da scontare, 260 anni, ha fatto 40 anni intervallati peraltro da varie evasioni anche clamorose. Da ieri è un uomo che può uscire di giorno, andare a lavorare in una cooperativa a Milano e poi la sera tornare in carcere. Non è la semilibertà, non avrà mai diritto alla semilibertà, gli è stata negata anche negli anni scorsi la grazia, la richiesta di grazia, ha scontato 40 anni, ha la possibilità di andare a lavorare di giorno. Che ne pensate? Vi sembra una scelta giusta? Questo vi chiediamo, radio24.it per votare. Io intanto vorrei salutare come ospite Gabriella Vitali D'Andrea. Buongiorno signora. Buongiorno. Lei è la moglie di Luigi D'Andrea, poliziotto sì. Che fu ucciso da Renato Vallanzasca il 6 febbraio del 77. Sono 33 anni fa, alla casella autostradale di Dalmine. Credo in una delle evasioni, poi, perché era entrato già in carcere Vallanzasca prima, poi è evaso, insomma ci fu questo conflitto. Un attimino, sì. Interrompo, perché ci tengo a precisare una cosa. Non sì. È in carcere da 40 anni, è stato arrestato nel febbraio del 77, quindi in carcere da 33 anni, punto. È stato prima arrestato, poi è evaso, insomma è stato arrestato la prima volta nel 72. Comunque non è 40 anni che è in prigione, che anche se fossero 80 va bene lo stesso. Senta, io so che è molto arrabbiata per questa... No, sono arrabbiata, sono delusa, non è uguale, non è la stessa cosa. Delusa amareggiata, perché? Amareggiata, delusa. Perché ce lo può spiegare? Ci spieghi? Delusa dagli organi preposti, perché certe condizioni, certe agevolazioni si danno alle persone quando hanno dimostrato dei cambiamenti o dei pentimenti, cosa che col soggetto in questione non è mai successo. Che non si dice né amareggiato né pentito e che non chiede scusa, eccetera, eccetera. Ecco, non ha mai dimostrato di essere cambiato, quindi... Lui no, infatti ha sempre detto io non mi sono mai pentito, certo ho sbagliato ma non ho mai detto, non ha mai fatto una scelta di rinnegare insomma quello che, sì. quello che ha fatto. Secondo lei questo è un aspetto fondamentale per... No, che non è pentito l'avevamo capito, ma che più mi ha fatto male la sua dichiarazione quando ha detto che chiedere scusa non è dignitoso. Io la ritengo la cosa più dignitosa della terra, saper chiedere scusa, quindi... Veda lei. Come lei sa, Renato Vanzasca rimarrà in carcere per il resto dei suoi giorni, però le dà fastidio il fatto che possa di giorno uscire per andare a lavorare? Seppure... Perché non ha fatto un percorso di recupero e perché? Cioè, non... cioè, io non mi fiderei, capito? Ecco, io non mi fiderei perché, ripeto, ha dato segnali con la sua arroganza, con la sua strapotenza di non essere cambiato minimamente. Perché se uno inizia un bel percorso, fa un bel percorso e ti dà segnali di cambiamento, allora se ne può parlare. Ma teniamo anche in considerazione che quest'uomo ha ancora 260 anni da scontare, cioè non si possono condonare così. Cioè non si può a un certo punto dire vabbè, quel che è stato, facciamo finta di niente. Perché le garantisco che io sto scontando, grazie a lui, il vero ergastolo. Il mio di ergastolo non avrà mai fine, grazie a lui. Io questo lo capisco, però signora, ecco. non è un condono di pena, cioè nel senso questo, dal punto di vista tecnico, non ha la semilibertà. Allora qualcuno mi deve dare delle garanzie che lui si comporterà bene. A parte il fatto che, tra parentesi, ripeto, non se lo merita, però vabbè. E questa no, questa è la sua opinione che io rispetto totalmente. Certo, senta, io le vorrei far ascoltare, come lei sa, tra l'altro ci sono, la stanno ascoltando, gli voglio salutare, Carlo Bonini di Repubblica, buongiorno Bonini. Buongiorno. Bonini ha scritto Il fiore del male, bandito a Milano, è una sorta di autobiografia dalla quale tra l'altro Michele Placido ha tratto il film che è in lavorazione proprio in questi giorni. La sta ascoltando, signora, anche Alberto Marcheselli, che saluto, buongiorno Marcheselli. Buongiorno. Una persona che si può dire ha avuto varie vite, tra questa, oltre che avvocato, oggi insegna diritto tributario, ma è stato anche magistrato di sorveglianza, ha scritto anche un libro, Magistrati dietro le sbarre, edito da Melampo, e già nel sottotitolo Farsa e tragedia nella giustizia penale italiana si capisce insomma che è stata un'esperienza anche con molti, con molte spine da affrontare, Marcheselli. Magari ci aiuterà tra poco, però io, signora Gabriella, vorrei fare ascoltare quello che Michele Placido, il regista, ha detto, sono pochi secondi, sul film, perché vorrei un suo commento. Sentiamo Michele Placido che ha detto di Vanzasca. Non tocca a noi perdonare per quello che hanno commesso, sì, insomma, per quei delitti che hanno commesso, che hanno confessato. Però uno si chiede, dopo 40 anni, si è un'altra persona? Ecco, dopo 40 anni si chiede, Placido, si può essere un'altra persona? Lei ecco, io le rispondo sì, si può essere un'altra persona. Non è questo il caso. Non è questo il caso di... No, non ha dato dimostrazione. Ripeto, se lei va a vedersi tutte le interviste, tutte le dichiarazioni rilasciate dal signore in questione, non c'è nessun tipo di segnale di cambiamento. Vogliamo... Io sono per il cambiamento. So che raramente succede, però può succedere, per l'amor di Dio. Non è questo il caso. Sentiamo che ne pensa Carlo Bonini, che Renato Vanzasca l'ha incontrato. Bonini, la signora Gabriella Vitali d'Andrea è molto, molto arrabbiata, molto delusa, molto amareggiata, perché dice Vanzasca non ha assolutamente mai dimostrato alcun pentimento, alcun segno di cambiamento in questi anni. Tu che l'hai incontrato da vicino? Premesso che quello che dice la signora D'Andrea non solo è legittimo, ma va rispettato e va ascoltato. Io ho incontrato Vanzasca, insomma, non ho conosciuto il Vanzasca dei 20 anni o dei 30 anni. Ho conosciuto un uomo che ne aveva già 50, e parliamo di 10 anni fa, e ho conosciuto un uomo che in qualche modo, non solo anagraficamente, ma io credo anche emotivamente, era evidentemente molto diverso da quello che si poteva leggere di quest'uomo nella seconda metà degli anni 70. Io penso che sia molto difficile entrare nella testa delle persone. Io, insomma, la nostra storia giudiziaria è piena di persone che erano state dichiarate riabilitate e sono tornate a delinquere, così come anche del contrario, persone che sono state considerate pericolose quando non lo erano più da un pezzo. Quindi io su questo, come dire, non mi voglio sbilanciare, faccio solo un'osservazione. Io credo che alla condizione di Vallanzasca vada riconosciuta una eccezionalità che fa ricordare quello sottotitolo Farsa e tragedia nelle prigioni nella giustizia penale italiana. Vallanzasca, per una serie di motivi probabilmente legati all'immaginario che questo paese ha sempre coltivato sulla sua figura, sulla sua banda di assassini e di rapinatori, non ha mai concesso nulla, il sistema non ha mai concesso nulla. È un uomo che ha trascorso molti anni di isolamento in carcere. L'isolamento notoriamente è una condizione carceraria che impedisce anche soltanto di manifestare un eventuale pentimento o percorso di recupero. Ci sono nel nostro paese esempi di uomini che hanno non solo ucciso uno, due, tre, ma hanno ucciso decine di volte, che sono liberi da molto tempo. Io credo questo, credo che i sentimenti e le emozioni di una vedova come la signora D'Andrea non solo vadano rispettate, ma ci vorrebbe uno Stato, come dire, che aiutasse la signora D'Andrea a non vivere il suo ergastolo o a viverlo in maniera più dignitosa. Il problema del nostro paese è che lo Stato abbandona le vittime, certo. E poi, come dire, consegna il perdono degli assassini a quelle stesse vittime. Vediamo se questo è quello che anche Alberto Marcheselli questa tesi che ci ha esposto Carlo Bonini, se è una tesi che lei condivide, Marcheselli. E le chiedo anche, facendola rientrare un attimo nella sua precedente vita, insomma, quella di magistrato di sorveglianza. Insomma, il magistrato di sorveglianza è quello che deve decidere anche delle pene alternative al carcere. Come conciliare il dolore, il disagio, il fastidio, la rabbia a volte delle vittime con uno Stato che deve anche pensare alla riabilitazione delle persone che stanno in carcere? Beh, innanzitutto devo dire che io non solo condivido, ma devo dire che ho ammirato la compostezza della signora D'Andrea nell'esprimere il suo punto di vista, perché io nella sua posizione non so se sarei stato così misurato. Comprendo e condivido anche quello che ha detto il giornalista Carlo Bonini. È vero, il dolore della signora D'Andrea ci dice una cosa importantissima, cioè che la giustizia penale non considera adeguatamente la posizione delle vittime, una cosa della quale sono sempre stato consapevole e che ho sempre denunciato. Lei mi riporta nei miei scomodi panni precedenti e io le rispondo, cioè io ho sempre cercato di tenere presente il dolore e il male fatto. Ma mi sono anche sempre detto che fin dalla legge del taglione si è cercato di separare quello che è l'istinto di vendetta da quella che dovrebbe essere la giustizia. E un'altra cosa che normalmente non si comunica adeguatamente, cioè che gli strumenti che vengono visti come strumenti premiali e vengono volgarmente chiamati benefici dovrebbero, e sottolineo dovrebbero, essere forme di rieducazione, dove rieducazione non dovrebbe essere una cosa vantaggiosa, ma dovrebbe essere una utilità sociale, cioè dovrebbe essere diminuisco il rischio per la collettività. È chiaro che così, come molto spesso si dice, con degli slogan che non so fino a che punto poi siano condivisibili, che la pena deve essere certa, bisognerebbe che fosse certa anche la rieducazione. A me è sempre sembrato molto paradossale che tra le richieste nelle agitazioni degli istituti penitenziari ci fosse quella per una maggiore rieducazione. Io ho sempre ragionato così. Se sono una persona che vive in ambito delinquenziale, permeato di cultura delinquenziale, io non voglio essere rieducato, perché significa che vengo strappato al mio ambiente. Questo mi ha sempre un po' fatto venire il sospetto che anche la rieducazione, non solo la pena, ma anche la rieducazione in Italia forse potesse essere migliorata ed essere più effettiva. Allora, io mi fermo un attimo per le informazioni sul traffico, poi rientriamo. La domanda è questa: insomma, vi scandalizza, vi sembra giusto che Renato Vallanzasca possa uscire dal carcere di giorno per andare a lavorare, ma ha scontato non 40 anni effettivamente, con qualche evasione, ma insomma dal 77, 33 anni di pena. Uno dei carcerati che si legge sui giornali ha scontato la pena più lunga, come ci ricordava Carlo Bonini oggi. Infatti anche Mario Cervi sul giornale giornale, sempre notoriamente molto duro quando ci sono le scarcerazioni cosiddette facili, oggi dice questo è il caso in cui almeno 33 anni, almeno tanti anni, tanti decenni sono stati scontati in carcere da una persona. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Renato Vallanzasca da ieri può, 4 ergastoli da scontare, può uscire di giorno per andare a lavorare. Vi sembra una scelta giusta? Su Radio24.it molti votate, bisogna dire che il 56% dice di no, però insomma percentuali vi state abbastanza dividendo. Sentiamo due ascoltatori se sono rapidi. Giuseppe da Varese, buongiorno, che dice? Buongiorno, io cerco di essere rapidissimo. Intanto non conosco benissimo la questione di Vallanzasca, non ho letto molto, però capisco. Vabbè, conosciamo tutti la sua storia. Io volevo soltanto dire questo: la signora diceva che il cambiamento è molto raro, quasi impossibile. No, io credo invece che le persone, ho un'esperienza indiretta ma concreta, che è la cooperativa Giotto nel carcere di Padova, dove volontari incontrano, hanno creato una cooperativa di pasticceria, e queste persone incontrando i volontari e ritrovando una speranza sulla vita, avendo la possibilità proprio di lavorare, di avere la loro dignità, sono cambiati. Ogni storia è diversa, lei sa che però ogni storia è diversa. Vallanzasca non ha mai mostrato un pentimento, cioè non ha mai detto io sono pentito per quello che ho fatto. Questo, ripeto, non conosco la storia, però il pentimento è dato anche da un incontro con qualcosa che gli fa vedere una prospettiva diversa, una vita diversa. Se non fosse così, la pena di morte è giusta, capisce? Cioè, perché non è giusta la pena di morte per chi ha commesso delitti? Perché c'è una speranza, ma la speranza è legata al fatto che questa gente, il 95% delle persone che sono in carcere, non vengono fatte lavorare, non hanno dignità, marciscono letteralmente nelle patrie galere senza avere la possibilità di recuperare. E l'incontro con persone, abbiamo migliaia di volontari in Italia. Lei dice aiuta a cambiare, certo, insomma, a fare il percorso riabilitativo. Giuseppe, è stato efficace, però bisogna essere più sintetici, devo andare a Bari, provincia di Bari. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Che salve. Dice? Senta, io penso, cioè, di sicuro il contrario di quello che ha detto l'altra persona. La signora sta scontando la pena, veramente, cioè la reale pena. Quella persona lì l'hanno fatto uscire, ma assolutamente io non so più dove si andrà a uscire, finire, ecco, perché non siamo, l'hanno fatto uscire, non è che l'hanno fatto uscire, non è libero. Di giorno esce e rientra la sera in carcere. È bene sempre ripeterlo, perché sennò non è come Omar che è uscito e ha finito la sua pena. Comunque Antonio, conclude. Sente, io credo che debba stare a vita in carcere, perché per quello che ha fatto, insomma, non c'è altra pena, almeno quella. Poi in America c'è la pena di morte, qua almeno, ma almeno da quel punto di vista siamo molto migliori dell'America, questo è il mio parere personale. Grazie Antonio. Gabriella Vitali, ha sentito Carlo Bonini dire il vero scandalo è che lo Stato abbandona le vittime, cioè ci fosse una legislazione. A Carlo Bonini volevo dire che se ha fatto tanto isolamento il suo signore in questione, vuol dire che qualche cosina ha sempre combinato. Poi, ma questo io, nessuno lo mette, per esempio, che nella mia famiglia, i miei genitori, i miei nonni, c'era la bandiera della legalità, ogni piccolo errore si pagava. La gente deve incominciare a pensare che gli errori si pagano. Lui ha fatto degli errori, chiamiamoli madornali, che è dare un senso troppo buono, però degli errori grandi. Ha tolto la vita, cosa che nessuno si deve permettere di fare. La vita umana non va tolta a nessuno, e dico che sono comunque contro la pena di morte, quindi. Questo però mi fa, mi fa molto, non si toglie nessuno. Mi fa molto piacere che lo dica. Se tu fai queste cose, non puoi lamentare perché ti mettono in carcere, ti fanno stare in carcere. Mi sta bene, come diceva l'altro signore, che aggiungessero il percorso di riabilitazione. Signora, le devo chiedere questo, signora Gabriella. Io posso far sentire ai miei ascoltatori uno stralcio della voce del signore? Io in non questione. Lo voglio sentire. Abbiate pazienza. Vabbè. Lei non lo vuole sentire, allora non lo mando in onda, tanto non cambia nulla. Niente, appunto. Sanno tutti che. No, intanto mi fa piacere che lei dica io personalmente sono contro la pena di morte, però le chiedo Le chiedo, non crede che Renato Vallanzasca abbia pagato? Cioè è veramente la persona, come cronaca, da più anni in carcere. Ecco, ho rispetto ad altri, rispetto ad altri che sono innanzitutto usciti. Smettiamola di far paragoni, perché allora se ragioniamo col tipo, c'è gente, come dice il Ber René, che ha sciolto bambini nell'acido ed è già in libertà e comunque condanno anche quelli. Allora ragazzi, facciamo una bella cosa, non sprechiamo più tempo e denari, non facciamo più processi, chiudiamo le carceri. Cioè, a questo punto, se ragioniamo così, bisogna fare così. Qui si deve capire una cosa: anziché dare 20 ergastoli, datene uno, due, ma fateglieli fare dall'inizio alla fine. Cioè, è come quando castighi un bambino, giustamente, se gli dai una punizione la porti fino all'ultimo giorno. Uguale, vale per i grandi, anzi di più per i grandi, perché ragazzi, qui si parla di vite umane. Non lo so. E sicuramente un'ultima cosa. Io ho avuto due bambine, che una ha rischiato di morire perché non mangiava più, perché non arrivava il padre. L'altra che ha cancellato 6 anni della sua vita. Ma ragazzi, cioè, mettetevi un attimino nei nostri panni. Dopo volevo rispondere all'altro signore di cui mi sfugge il nome. Alberto Marcheselli, che è l'ex. Che lo Stato ci abbandona. Ok, relativamente, ma non siamo delle povere mentecatte, eh? Quando io parlo di ergastolo, parlo di solitudine che mi è stata inflitta dal Ber René. Ho un'ultima, ragazzi, un'ultima domanda. Non dovete pensare che poi una comunque se la può rifare la vita. Ma questo sicuramente. Io volevo quell'uomo, sicuramente, sicuramente, signora. Io ho 30 secondi per chiudere. Perché lei è anche contro il film che Michele Placido sta facendo? Perché c'è il rischio, dice, di. Allora, sono contro il film, principalmente lo ritrovo non educativo, scusi, ma per il semplice fatto che è tratto da un'autobiografia. Il film lo doveva fare basandosi su atti processuali e basta. Tratto dalle parole di lui proprio, guardi, non le piace questa idea. Di dire il nome, io, dire lei. No, ma l'ho capita benissimo. Io la ringrazio, Gabriella Vitali D'Andrea. Voglio ricordare la moglie di Luigi D'Andrea, poliziotto ucciso da Renato Vallanzasca. Così come ringrazio Carlo Bonini, che ha scritto Il fiore del male, bandito a Milano, e Alberto Marcheselli, autore invece di Magistrati dietro le sbarre. Ci fermiamo qui. Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. Allora do la linea a Oscar Giannino, che in un'ora avrà l'arduo compito di spiegarci che diavolo sta succedendo con queste liste, decreti, controdecreti, TAR, uffici elettorali, e non è finita. A te, Oscar, e noi ci sentiamo domani.